Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Ciao a tutti e Carlo, Milano Monterosa. Oggi c'è il sole, è bello quando me lo chiedi così. Forse devo smorzare un po' questo entusiasmo che avevo anche ieri per questo sole, perché poi magari arriveranno anche giorni meno gioiosi. Ma sole insomma, per il momento ovunque c'è il sole e siamo molto contenti. Vi aspettiamo 800 24 0024 come ogni sabato e domenica mattina. Stiamo insieme fino alle 10. E cerchiamo naturalmente anche un personaggio della settimana. Diciamolo subito, diamo subito l'indizio. Un indizio. Gli ascoltatori si svegliano mentre bevono il caffè e cominciano a pensare, a discutere con moglie, mariti, compagni, compagne, la minoranza PD inclusa. Certo. Hai visto che hanno anche la nuova sigla DP, che è il contrario, dicevi giustamente è, tu. È il contrario di PD, ma vabbè, soprattutto appena ho letto cos'è, democratici e progressisti, mi sembra, e ho detto, ma mica si chiameranno DP come democrazia proletaria, perché altri anni, però insomma siamo ancora, molti sono ancora vivi, ecco. Allora, il personaggio di questa settimana, primo indizio, è un personaggio che è coraggioso, quindi pensate, tra le notizie degli ultimi 7 giorni, tassativamente sono 7 giorni e non di più, e cercate un personaggio coraggioso e chiamate all'800 24 0024 per aggiudicarvi per primi il premio. Piccolo sommario, parleremo di una inedita causa sullo smog, i cittadini contro le istituzioni, c'è gente che non si arrende. E vedremo. E soprattutto e che cambia strategia, nel senso non protesta in piazza, non striscioni, non hashtag, ma avvocati. E vedremo se non si può fare anche questo. E poi ci domanderemo se si può fare di tassare i robot. Notizia di questa settimana, proposta di Bill Gates, ne parleremo anche noi. Poi il boom dell'agricoltura al sud, non ce ne siamo accorti solo noi, ma anche le statistiche. Noi ne parliamo sempre, siamo degli fieri entusiasti sostenitori dell'agricoltura. Pensavo delle statistiche. Anche delle statistiche. Meno, soprattutto la domenica mattina, molto più l'agricoltura. E quindi via, iniziamo, vai. Nessuno è contrario a uno stadio. Se c'è una leggera discussione, c'è una discussione sulla collocazione di uno stadio che è in una zona a rischio idrogeologico, con la sovrintendenza che ha posto qualche limite, si discute se dove farlo, magari in una zona meno a rischio idrogeologico. Questo è quando, ma poi deciderà la giunta e il sindaco. Nessuno dice di no. Noi diciamo di sì, ma da qualche parte, che non sia quello, perché se c'è una zona che non esonda, magari è meglio. Sarà un progetto innovativo. Abbiamo ottenuto un taglio delle cubature da oltre 1.100.000 metri cubi, siamo scesi della metà, che prevede la completa messa in sicurezza del quartiere di Decima dal punto di vista del rischio idrogeologico, la costruzione di una nuova fermata sulla Roma Lido, prevede la riqualificazione dell'asse viario via Ostiense e via del Mare. È un progetto che prevede la costruzione di edifici bassi, quindi via le torri. Con il riepilogo della settimana non potevamo non posizionarci anche noi qua su questa questione. Anche perché questa questione va sempre raccontata con degli audio, mi sembra. Perché quando si sente parlare Virginia Raggi, quando senti i singoli audio ti sembrano anche sensati. E quando li metti tutti insieme che è un po' difficile. Perché fino a poco fa era lo stadio non si fa assolutamente. Poi lo stadio lo si fa ma da un'altra parte. Se lo si fa in quel posto è un disastro colossale. Adesso invece lo si fa in quel posto senza i grattacieli. Che però ho letto da qualche parte qualcuno dice i grattacieli si costruiscono seguiranno un po' dopo. È molto difficile capire se nel senso che un conto è dire: momento, fermi tutti sullo stadio perché vogliamo migliorare il progetto. Un conto è dire sì, no, assolutamente sì. Se lo si fa uno schifo, cioè, ogni volta è una posizione completamente contraria, diventa difficile capire. Io dico è un miglioramento. Noi italiani col cemento siamo come i drogati con le dosi, no? Cioè, siamo proprio abituati. Ti ricordi il piano casa, il cemento risolve tutti i problemi. Quindi potevamo noi fare come in Germania, a Monaco di Baviera, uno stadio immerso nel verde? No. Ecco, piccoli passi per voi. Stiamo migliorando. Hanno tagliato le cubature del 50%, quindi si sono resi conto tutti che era un progetto di forse troppo cemento. Voglio rimanere nella tua metafora. Se siamo dei drogati del cemento, sono d'accordo, questo è un piccolo passo, però questo è il metadone. Non è detto che il metadone. Sarebbe meglio non drogarsi. E allora adesso, come detto, ci occupiamo invece di un'altra cosa. Da Roma saliamo a Milano, Lombardia, e parliamo della qualità dell'aria. Facile, però ci stava, Marcella Bella. Aria. È perfetta. Aria. Intanto vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana, che è un personaggio che è stato coraggioso, quindi pensate e chiamate all'800 24 00 24. Allora, smog nella nostra area, ancora a livelli preoccupanti, soprattutto al nord Italia. C'è chi non si rassegna, perché in genere ci si sente impotenti di fronte allo smog, un po' come mi viene da dire, un po' come Fiorella Mannoia la sera del festival davanti a Gabbani, no? Uno è incredulo e sgomento. Invece no, c'è chi dice no, e c'è chi decide di fare una causa legale contro le istituzioni per risolvere e per provare a risolvere questa questione. Adesso andremo a spiegarvi di cosa si tratta. Intanto salutiamo Anna Gerometta, avvocato e presidente di Cittadini per l'Aria. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Assolutamente invito tutti a non rassegnarsi. Brava, non rassegniamoci. Anzi, voi siete tutt'altro che rassegnati, perché insieme alla ONG inglese Client Earth avete appunto che vi sostiene, state intraprendendo questa azione legale contro la Regione Lombardia, è così? Sì, assolutamente, perché in realtà ci sono leggi, non tutti lo sanno, che proteggono il diritto dei cittadini a respirare un'aria di buona qualità e impongono delle regole alle amministrazioni che sono responsabili di governare il territorio in cui ci sono violazioni dei limiti di legge. Ecco, appunto, cerchiamo di capire questo, perché di fronte a una causa che tra l'altro ha dei precedenti in Gran Bretagna, perché questa ONG ha cominciato a intraprendere questo tipo di azioni in Gran Bretagna, ma anche in Germania e all'estero, ci si domanda, è una di quelle cose che spesso si fanno per provocare un dibattito, per suscitare una reazione, oppure avete proprio in testa un punto d'arrivo? No. C'è un comportamento preciso, delle norme precise? A dire la verità, io ho iniziato ancora prima di Client, quando nel 2012-11 abbiamo fatto una causa a Regione Lombardia, ottenendo che il TAR amministrativo della Lombardia ordinasse a Regione Lombardia di fare il piano dell'aria, che allora in realtà poi in questa, diciamo, rete europea molto efficiente che abbiamo, che diciamo gira intorno a un'associazione che si chiama European Environment Bureau. Ma mi scusi, come è andata poi quella volta, quando avete già fatto causa una volta, l'avete vinta? Abbiamo ottenuto, certo, abbiamo ottenuto che Regione Lombardia facesse il piano regionale per l'aria. Quindi non è simbolico, non è per niente simbolica come operazione, nel senso che effettivamente poi le istituzioni sono costrette a rispondere con un piano. Allora, diciamo che nel 2012 appunto la sentenza è stata favorevole. Noi oggi in qualche modo proponiamo una causa che è parzialmente diversa, ma molto simile, nel senso che riteniamo che il piano fatto nel 2013, che appunto rispondeva sostanzialmente a quella sentenza, abbia dimostrato di essere insufficiente. Cosa prevedeva quel piano e che cosa c'è di insufficiente? Quel piano prevede 91 misure di cui sono state attuate alcune, una buona parte, ma sono evidentemente insufficienti. Altre sono state sostanzialmente rinunciate da Regione Lombardia, dichiarando che non hanno i soldi per farlo, dichiarando che non ci sono le condizioni socio-economiche per attuare certi limiti. Ecco, questo, insomma, mi scusi se la interrompo, perché è un po' questo il senso di impotenza che mi viene da dire respirano, ma in questo caso insieme alle particelle sospese nell'aria, i cittadini, quando si parla di questa questione, perché si sa che ci si sente dire dalle istituzioni che, insomma, è una questione più grande di tutti noi, bisognerebbe mettere d'accordo tutti i comuni, non ci sono le risorse, eccetera eccetera. Voi però, di fronte a questo, non vi arrendete e dite no, invece si potrebbe fare. Che cosa? No, non solo si potrebbe fare, si deve fare, perché è un obbligo di legge e perché quello che evidentemente viene assolutamente sottovalutato è il danno alla salute di tutti i cittadini. Quindi il punto è, l'accordo si trova, e le dirò, ultimamente sono molto più coraggiosi i comuni di quanto non sia stata la regione, nella misura in cui le persone sono consapevoli del fatto che ridurre gli inquinanti dell'aria riduce tantissimo le malattie, e quindi non vi è una possibilità di mettere sullo stesso piano né l'impegno economico. Le sentenze inglesi questo l'hanno detto in modo assolutamente chiaro: un governo non può scegliere la via più economica, deve scegliere la via più efficace. Esatto. Senta, le anticipo una domanda che poi alla quale chiederò di rispondere, però dopo le informazioni sul traffico che dobbiamo fare adesso, dobbiamo fermarci un secondo. La domanda è: avrete fatto anche una raccolta naturalmente di dati, immagino, per capire le cause anche dell'inquinamento, quali sono secondo voi le principali cause? Perché spesso ci sono misure che riguardano il traffico delle auto private, si sente dire anche dagli stessi comuni, ma sono misure inefficaci, perché c'è il problema dei riscaldamenti, contro i riscaldamenti si fa poco o niente, e poi c'è sottofondo la questione dell'industria, dell'agricoltura, contro cui probabilmente non si fa quasi niente. Quindi le chiedo anche di spiegarci, all'interno di questa causa legale contro Regione Lombardia, quali sono le cose contro le quali principalmente bisognerebbe rivolgersi. Traffico, torniamo tra poco. Ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Anna Gerometta, avvocato, presidente di Cittadini per l'Aria, promotrice di una causa legale contro Regione Lombardia per che intervenga per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. E quindi le chiedevo, Gerometta, quali sono le misure che secondo voi dovrebbero e possono essere messe in campo da Regione Lombardia perché diventino efficaci, come dicevamo poco fa? Allora, guardi, noi abbiamo un problema con il biossido di azoto, l'ON2, che è quasi per la totalità provocato dai veicoli diesel. Quindi la prima cosa, il traffico è assolutamente la fonte prevalente in Lombardia di inquinamento dell'aria in generale. Quindi dopo le informazioni del traffico mi sembra molto giusto sottolinearlo. Quindi la prima cosa che Regione Lombardia dovrebbe fare è mettere in condizione lombardi di spostarsi in modo diverso che non con l'auto privata. Quindi questo faccio un piccolo inciso all'interno di questa della sua spiegazione sulla questione dei diesel, per chi ci sta ascoltando. Magari qualcuno potrà pensare: sì, vabbè, ma i diesel di nuova generazione sono meno inquinanti. Lo sono, diciamo, dati truccati a parte, sicuramente lo sono, sono meno inquinanti del passato. Però su questa questione la riflessione è arriva anche da altri paesi. Abbiamo parlato qualche settimana fa di Londra, che vuol mettere al bando le auto diesel, e sicuramente qui una componente grossa di inquinamento c'è anche su questo, però poi c'è anche dell'altro, no? Sì. Su questo, fra l'altro, no, vorrei fare un piccolo inciso, perché in realtà lei ha detto giustamente inquinano meno fino a un certo punto, perché in realtà ormai, e guardi, proprio l'Inghilterra in questo senso è maestra, perché nel nuovo piano dell'aria ne hanno dato atto, anche i diesel Euro 6 mediamente hanno emissioni di ossidi di azoto che sono 5-6 volte quelli che vengono indicati come limite di legge. Purtroppo questa è una situazione reale, per cui di fatto non abbiamo la possibilità per almeno 10 anni di avere macchine che su strada emettono quello che dicono i libretti di circolazione. Quindi dobbiamo renderci conto che la scelta del diesel in generale non è una buona scelta, e che quando noi compriamo una macchina diesel le emissioni non sono quelle che effettivamente sono imposte dalla legge. Sì, questo in alcuni casi ci sono state addirittura delle inchieste per i dati truccati. Ma andiamo avanti, Gerometta, andiamo avanti, perché naturalmente l'elenco non credo che si fermi qua. No, poi c'è un problema crescente, che è quello della combustione della legna, dei combustibili solidi. In questo momento il governo sta per emanare un decreto, e Regione Lombardia ha fatto una pianificazione, diciamo, energetica di impianti caldaie a combustibili solidi virtuosi, che però rischia di essere un boomerang totale, perché in una regione come la Lombardia gli impianti a combustibili solidi non li si dovrebbe proprio usare, salvo in montagna, dove non arriva il metano, dove non arrivano il gasolio, perché paradossalmente la legna, che certamente è, diciamo, è naturale, una sì, ma è naturale, scusi, ma sono così, le faccio una domanda, legna, sì, le faccio una domanda da parte del cittadino disinformato o semplicemente scettico: ma sono così tanti riscaldamenti a legna da provocare una quota, guardi, importante di inquinamento? Assolutamente in crescita. Lo dice l'Enea, lo dicono i dati nazionali, e comunque in Lombardia, proprio una slide di regione presentata per raccontare il piano dell'aria, spiega che gli impianti, la gran parte degli impianti sono successivi al 2010. La gente probabilmente anche legna, per motivi economici, certo. Ma mi scusi, le volevo fare... La legna emette benzapirene, che è un cancerogeno potentissimo. Le volevo fare un'altra domanda. Mi chiedevo, ma questa questione della causa, che è sicuramente fondamentale, è una buona notizia o no? Nel senso che io mi aspetto che delle associazioni come la vostra, impegnate da anni, di cittadini che dicono l'aria inquinata, che vanno a parlare con la regione, mi aspetto che i nostri amministratori, che abbiamo pure eletto, dicono: certo, questo è un problema e troviamo un modo per risolverlo. Quindi nel momento in cui... No, mi scusi, nel senso che ho la sensazione che un tempo era più così, nel senso che perlomeno che gli amministratori anche loro pensino che questa sia un'emergenza, nel senso che il fatto che sia un'emergenza è evidente. Invece mi chiedevo, nel momento in cui ci si sposta, cioè il metodo di lotta, se vogliamo, cambia e diventa: benissimo, allora io ti faccio una causa perché tu hai il dovere di farmi respirare dell'aria pulita. Questa è una buona notizia? Ma sì, guardi, tutto sommato è una buona notizia, perché qualcuno reagisce, perché il punto è, in particolare Regione Lombardia si giustifica sempre il fatto di non poter fare di più, di avere condizioni orografiche complicate, di non avere sostegno dal governo, ma la buona notizia è che invece dobbiamo poter pretendere da chi ci amministra effettivamente di mettere in piedi piani con misure che siano molto, ma molto più. Insomma, le carte bollate non piacciono, certo, a nessuno. Se si potessero evitare, però, quando non si trovano alternative, i cittadini si organizzano e fanno causa. Scusi, Gerometta, le volevo chiedere. Sì, sì, no, ma ha chiarito su questo, non c'è bisogno di dire altro, secondo me. Ascolto, diciamo. Ecco. Invece, le cause che sono state fatte in Germania, in Gran Bretagna, dalla ONG che adesso sostiene il vostro di ricorso, certo, quindi c'è un percorso diciamo, legale in Italia e poi ce ne sono altri all'estero. Certo. Abbiamo dei precedenti, ci sono notizie incoraggianti, che cosa è successo in quei Assolutamente paesi? Assolutamente abbiamo delle notizie, sì, molto incoraggianti, abbiamo una giurisprudenza cospicua che si sta diciamo costruendo sulla assoluta tutto sul fatto che il non violare i limiti è un obbligo di risultato, quindi non ci si deve solo provare, ma ci si deve arrivare. E soprattutto Milano direi che ha già violato tutti i limiti, già tutti i giorni disponibili, giusto? Tutti, sì, assolutamente. Quindi adesso ci aspettano 300 giorni straordinari, sì, con l'aria pulitissima. Siamo efficienti, siamo almeno siamo molto efficienti. Speriamo, se piove, come ha piovuto. Tanto. Comunque sì, c'è una buona giurisprudenza che incide molto anche sulla nostra speranza del fatto che si può fare. Assolutamente. Ottimo, questo ottimo. Ce lo mettiamo nel promo. Noi la ringraziamo, Anna Gerometta, presidente dei Cittadini per l'Aria, promotori di questo ricorso, secondo ricorso al TAR contro la regione Lombardia, probabilmente in questo senso di impotenza e di rassegnazione che coinvolge anche le istituzioni, questi cittadini con questa causa hanno voluto smuovere le acque, perfetto, sì, le acque inquinate, volevi dire. Se non lo fai perché sei convinto, lo fai perché ti faccio una bella causa, che diventi, esatto, la priorità. Beh, potrebbe diventare questa assolutamente una delle forse la priorità delle istituzioni. La mattina Maroni si sveglia e cosa pensa? Come risolve il problema dell'aria? Perché quali altri problemi grossi ci possono essere se non la salute delle persone? Sì, è che noi ci aspettavamo che lo facesse comunque tutte le mattine, invece adesso lui si sveglia la mattina e dice come risolve il problema della causa che mi hanno fatto. Giusy da Como, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa volevi intervenire? Volevo intervenire sul personaggio di oggi. Ottimo, chi è? Secondo me è Piff. Piff. Piff. Piff. Certo. Ci racconti il motivo. Perché? Il motivo, in settimana ho sentito che si è battuto per i disabili e ha avuto un bel diverbio con Crocetta. Sì, ha partecipato a una manifestazione di protesta dei disabili siciliani che sono rimasti senza risorse e si è incavolato di brutto al telefono, sì, con Crocetta a favore di telecamere, e Crocetta ha promesso di fare qualche cosa. Sì. Siamo contenti di aver ricordato, sì, questa storia che avremmo poi comunque ricordato, ma non è il personaggio che abbiamo scelto. È un altro il personaggio coraggioso che avevamo immaginato. Grazie. Grazie. A dopo 800 24 0024 GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9-8 minuti, riprende Si può fare, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. E cerchiamo un personaggio della settimana, ve lo ricordo subito, il primo che indovinerà si aggiudicherà il premio di oggi, un libro. Allora, il personaggio, primo indizio, è coraggioso. E do il secondo indizio? No, aspetta. Aspettiamo che si stanno avvicinando, esatto, le telefonate arrivano. Che hanno chiamato per rispondere su questo indizio. E poi tra poco parleremo della strana idea di Bill Gates. Si può fare di tassare i robot per così dire, questo è interessante, va capito anche quanto fosse veramente una proposta e quanto fosse una battuta quella di Bill Gates. E allora, e poi tra poco riprendiamo anche con un po' di notizie della settimana, visto che la domenica facciamo anche questo, vi raccontiamo un po' quello che è successo in settimana. Ettore da Roma, buongiorno, benvenuto all'800 24 00 24, vai. Buongiorno. Prego. Io ho chiamato perché penso che il personaggio sia non italiano, uno straniero. sì, il vigile del fuoco in Cina, che nel corso di un incendio di un palazzo è uscito da questo palazzo in fiamme tenendo in braccio una bombola del gas incendiata con le fiamme vive. Questo è il gesto di coraggio che io penso. Io non conoscevo, a dire la verità, questa storia. Infatti già siamo contenti che il personaggio non era lui, ma però l'abbiamo lasciata parlare perché ci piace sempre che attraverso il nostro personaggio della settimana veniamo a scoprire storie che vi hanno colpito. Io vorrei, Ettore, che ci raccontasse come è andata a finire poi questa storia. È riuscito ad evitare il peggio perché la bombola con tutta probabilità sarebbe esplosa, sì, mentre lui ha evitato questo evento veramente. Quindi si è salvato lui, si è salvato anche chi e quindi chi lo considero si... un gesto di, assolutamente, di estremo coraggio a rischio della propria vita. Bravo, grazie Ettore. Grazie mille. Se nessuno indovinerà il personaggio, direi che Ettore si porta a casa ad honorem. È il vincitore morale fino a questo momento del nostro personaggio della settimana per questa storia del vigile del fuoco cinese che ha salvato tutti uscendo con una bombola in mano. Allora, c'è chi scrive al 3492386666 sulla questione del smog da cui siamo partiti, cioè la causa legale dei cittadini per l'aria contro Regione Lombardia, ma anche combustibili a legna. Bene, fermiamo le aziende che producono pellets. Sicuramente... No, però il pellet non credo che sia equiparabile al legno. È in discussione anche il pellets perché sembrava un combustibile sostenibile, ma probabilmente invece risulta tra i combustibili inquinanti, secondo le ultime ricerche. È un po' quello che diceva anche la nostra consulente, l'avvocata dei cittadini per l'aria, che si è riferita ai riscaldamenti con materiale, diciamo, di legno, a legna, che sono in crescita. Sono in crescita anche i riscaldamenti a pellets perché sostanzialmente costa meno, quindi c'è stata una grande diffusione in questi anni. Però qui c'è un punto di domanda da fare: se effettivamente inquinano, bisognerà trovare il modo di rincentivare altre vie. Adesso che tutti hanno comprato la stufa a pellet, bravo, andare a dirgli scusate, abbiamo scherzato, la frittata è fatta. E allora adesso 800 24 00 24, diamolo un altro indizio per il personaggio della settimana. Il secondo indizio è che il personaggio ha fatto discutere. Mi candido alla segreteria del PD perché questa è casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarmi o cacciarmi via o cacciarci via. L'elemento di divisione è Renzi, diciamo. Se questo elemento di divisione, quindi lei dice, senza Renzi viene si può tornare insieme, rimosso, sicuramente il centro-sinistra tornerà ad essere unito. Beh, l'intervista di Bianca Berlinguer a Massimo D'Alema, interessante, perché lei faceva le domande e lui parlava per conto suo, e lei pure forse. Un profluvio di diciamo. Avevo letto un tweet molto bello che diceva: chissà se il nuovo partito di D'Alema si chiamerà diciamo. Si è risentito anche Prodi in settimana. Sulle cose del PD non intervengo. Io quello che dovevo dire l'ho già detto. Sui tempi delle elezioni, basta. Il resto sono problemi che non mi toccano, anche perché non essendo iscritto. È stato a riprendere la tessera dopo 3 anni, vista la situazione. Ma ormai sono vecchio. E allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ci fermiamo per le informazioni sul traffico, tra poco rientriamo e poi naturalmente diamo di nuovo spazio alle vostre telefonate. Stiamo cercando un personaggio della settimana che, abbiamo detto, è coraggioso e ha fatto discutere. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. Accattati la corrente, s'accende e partirà. chi se la ricorda questa? Tutti, alzate la mano quelli che sapevano. Tutti. Tutti. Tutti, anche i più giovani. Questa canzone, ve lo dico, è del 1981. Quindi Lorenzo Nespoli, se te la ricordi, è perché questa canzone ha avuto una storia successiva, che tu non eri nato. Dice no, dice no, dice no con la testa. Ai ai ai. Massimo Temporelli, buongiorno. Ciao, me la ricordo anch'io. L'abbiamo messa per te. Tu sei più dei nostri che dei loro, insomma, i 40 mi sa che li hai superati anche tu. Vabbè, però non stiamo qua adesso a sottilizzare su questi inutili aspetti legati all'età anagrafica di tutti noi. Massimo Temporelli, fisico, divulgatore e scrittore, ti ritroviamo perché insomma, ci appelliamo a te. In questa settimana la dichiarazione di Bill Gates, che a dir la verità, oltre che nelle classifiche su Fortune degli uomini più ricchi del mondo, ormai non sentivamo più notizia, ci ha un po' risvegliato appunto dal torpore. Tassare i robot per incentivare il lavoro umano, un'idea bizzarra, non ci aveva mai pensato nessuno. Non sai, tu cosa ti è scattato nella testa quando hai sentito questa notizia, che è proprio il tuo mondo, perché tu ci stai in mezzo all'automazione, alle nuove professioni, alle nuove tecnologie, eccetera. Ne abbiamo parlato anni fa insieme, no? Le nuove professioni riguardavano anche i programmatori di robot e spingevamo già per scegliere quelle strade professionali perché sarebbero state quelle che avrebbero pagato la lucca. Oggi piano piano si sta, tutto quello che abbiamo detto si sta avverando, e Bill Gates, che sicuramente ha fatto i soldi con la rivoluzione precedente, e certo non ha fatto mettere le tasse sui robot. Questo ci avevo pensato anch'io, devo dire. Sui suoi computer, ecco. Che tra l'altro hanno tolto non so quanti lavori alle persone, agli umani, oggi giustamente si spaventa, o perlomeno si può permettersi di spaventarsi davanti a questo nuovo flusso di tecnologia. Io naturalmente sono contrario, non si può fermare l'innovazione con le tasse, ma non perché per qualche motivo strano finanziario, economico, ma proprio antropologico. L'uomo ha fame di, è curioso di novità. Però perdonami, sì. In realtà non è una, almeno io non la vedo come un desiderio di interrompere l'evoluzione o di bloccare l'evoluzione tecnologica. Il concetto che viene detto è: un lavoratore che produce per 50.000 euro viene tassato, un robot che prende il suo posto di lavoro, stiamo parlando di fabbrica per esempio, produce diciamo per 50.000 euro per la propria azienda, perché non dovrebbe pagare una parte di tasse che andrebbe per esempio sottolineo questo perché questa è la prima domanda, nel senso se è possibile e se ci interessa un tipo di operazione come questa, che in realtà vorrebbe dire per esempio, quando si parla di reddito di cittadinanza, forse di andare a prendere i soldi lì. Tu in realtà stai già parlando dell'antidoto, che secondo me è molto giusto. Ricordiamoci che tutta la tecnologia ha cancellato un sacco di lavori, ma ne ha creati tantissimi di nuovi. Quindi volevo intanto stare sulla prima domanda e capire se è possibile o sensato. Secondo me non lo è, proprio perché frenerebbe l'innovazione. Cioè, se io devo scegliere tra un umano e un robot a pari prezzo, scelgo l'umano per empatia, per quello che vuoi. La leva anche finanziaria, economica, che gli imprenditori devono mettere in campo è che il robot costa meno. Se glielo fai costare uguale, allora l'innovazione non avviene, perché poi è sul campo che la robotica migliorerà. Cioè, tu già per scontato, e questo ci rasserena molto, che diciamo l'imprenditore dà priorità al fattore umano, no? Lo sviluppo. Direi che dà la priorità a quello economico. Al fattore umano, perché esatto, perché ha più valore, però poi entra in campo la valutazione economica, allora ecco il robot che costa di meno. Se dice, se lo faccio costare di più, allora si blocca l'automazione. Questa è la filosofia temporelliana, se vogliamo, no, e di tutti i sostenitori dello sviluppo. C'è un ascoltatore però che avanza un'ipotesi: sarà che Bill Gates deve essere di origini italiane, perché se ha questa idea di mettere le tasse sul robot, deve essere una roba invece no, caro ascoltatore, perché vedi che il dibattito sulle tasse va oltre frontiera, non siamo solo noi italiani che riflettiamo su questo, ma succede. Ma io veramente non l'ho visto tasse come un attacco all'evoluzione tecnologica, però forse sono io che sono ingenuo, nel senso che è giustissimo quello che dici: nel momento che un operaio mi costa di più, io scelgo un robot. Però intanto esiste una via di mezzo, perché io penso che il robot costi infinitamente meno dell'operaio, e quindi può essere che ci sia un margine per cui io pago delle tasse. Poi io in realtà non riesco a capire che cosa significhi dire una tassa sui robot, per questo che ti chiedevo. Chi la paga, il robot? Perché giustamente, come dici tu, anche i computer, allora anche sul telefonino, allora anche sull'aspirapolvere? Sì, su tutto quello che automatizza il lavoro umano. Posso, poi se volete torno a rispondere alla domanda. No, no, puoi dire quello che vuoi. Sì, no, proviamo però ad allargare ancora di più, sì, la lente e provare a ragionare su che cos'è l'umanità e perché nel DNA culturale dell'umanità ci sono persone che devono fare dei lavori ripetitivi e persone fortunate come noi che siamo al telefono e forse qualcuno che ci ascolta alla radio che invece possono usare la creatività. Allora io propongo un'umanità, se è possibile, insieme, ragionando con filosofi, politici, con imprenditori come Bill Gates, che non preveda più delle figure così basse, che si mettano in catena di montaggio a spostare un pacchetto da un tapirulan all'altro. Cioè proponi vorrei... 7 miliardi di creativi? Lo so, appunto. Quello è il casino, no? Far stare in piedi un è un casino all'ora dell'aperitivo, così a sensazione. Sarà che sono di Milano, ma 7 miliardi di creativi mi sembra una brutta festa. Però al contrario, perché ci sono delle persone privilegiate che possono usare la parte intelligente del proprio cervello, che è quello che ci caratterizza rispetto al resto della biologia, e invece altri che devono spegnere quella parte del cervello, attaccare le mani e spostare i pacchetti sulla catena di montaggio. Giusto. Che potrebbero fare i robot. Ha detto, è chiaro che il problema è cosa faranno quelle persone. Sicuramente la formazione è fondamentale. Bill Gates ha detto una cosa giusta, bisogna investire dei soldi in formazione per far sì che le persone programmino i robot o facciano qualcos'altro, non lo so cosa. Ma c'è questo switch tecnologico che deve essere anche accompagnato da uno switch sociale, culturale. E questo non l'ha mai detto nessuno. Bill Gates apre questo capitolo e secondo me il vantaggio e il merito di Bill Gates su questa polemica è che ha aperto finalmente un dibattito un po' più serio che non robot sì, robot no, certo, robot bello. Tra l'altro Massimo, questa cosa è successa, sì, anche in passato, perché ogni volta che c'è stata una rivoluzione tecnologica qualcuno ha detto beh, la fine del lavoro umano, gli uomini, gli esseri umani da parte, è successo con la rivoluzione industriale, l'industria a vapore, no? Il sogno, sì, dell'automazione. Tu che ti interessi anche di storia delle invenzioni, delle innovazioni, cioè il salto che vi adesso è molto diverso da quello che è stato. Secondo me no, secondo me è uguale, solo che quando arrivano le cose nuove sembrano nuove, ma sono vecchie. Cioè l'Uden, che è il luddismo, così, no? Oggi chiamiamo, sì, il neoluddismo, nasce proprio da questa paura. Gli operai andavano in fabbrica a distruggere i telai perché si sentivano sotto scacco. Oggi qualcuno potrebbe cominciare a picchiare i robot o le macchine che si guidano da sole, perché potrebbe un giorno quel robot o quella macchina portargli via il lavoro. Giusto, ma Massimo, scusami, io condivido moltissimo il discorso che hai fatto, sono molto d'accordo che tu dici, ma perché forse l'umanità invece che occuparsi di spostare dei pacchetti dovrebbe occuparsi d'altro. Quello che ti chiedo è se hai la sensazione che con un'automazione sempre maggiore ci sarà lavoro, o meglio stipendio, per 7 miliardi di persone, che tra l'altro fra poco saremo 10 miliardi, si dice. Questa è la domanda. È difficile. Perché io sono d'accordo con te. La mia risposta è, se apriamo il cassetto in cui c'è questa domanda e cerchiamo la risposta è no. Come sempre, cambia il paradigma, cambia il cassetto. Quindi dobbiamo immaginarsi un mondo diverso, non solo tecnologico, ma spesso culturale, anche le tasse, anche la formazione. Forse ci formeremo fino ai 60 anni e lavoreremo gli ultimi due, certo, non lo so, giusto, lo so. Giusto. No, ma infatti questa è bellissima, questa è bellissima, studieremo fino ai 60 anni e lavoreremo gli ultimi due, è meraviglioso. Senti, vogliamo però rispolverare anche un po' l'elenco dei mestieri che sono a rischio, perché secondo me non tutti hanno chiarissimo che i robot stanno in tanti campi. Cioè uno pensa solo alla fabbrica, il robot tuc tuc tuc tuc che fa la catena di montaggio, no. Ma i robot adesso guidano le macchine, fanno di tutto. Sì, posso essere forte o facciamo una cosa graduale? No, vai forte, giù forte! No, allora, no, c'è una classifica, se avete un attimo di tempo, ve la andate a cercare su Google, è abbastanza semplice da trovare. Se scrivete The Future of Employment, troverete un lavoro di Oxford del 2013, tutto ben raccontato. Poi alla fine, andate alla fine, gli ultimi 5-6 fogli, troverete una classifica di 702 lavori. Con la percentuale di estinzione. Adesso noi ce l'abbiamo tutti col taxista, purtroppo anche lì in quella classifica è quello con il 100% di estinzione nei prossimi 10 anni. Il tassista? Il taxista, 100% sì, di estinzione in quanti anni? Sì, 98%. In quanti anni? Nei prossimi 10 anni. I ricercatori dicono. Bisogna ricollocarli quelli, perché abbiamo visto che quando non lavorano in piazza sono piuttosto fastidiosi. La cosa divertente, così diamo la prima risposta, è che cioè quella che ha la minor percentuale di estinzione è la maestra d'asilo. uno dice, ma come? Il taxista è stato a 0,5 in quello stesso, cioè è la working class, no? Quella di cui parlavamo prima. In realtà, se andate a vedere la complessità del lavoro che svolge una maestra d'asilo, è un casino avere a che fare con una bambina o un bambino di 2 o 3 anni, no? Certo. Perché sono non lineari. Mentre la strada è quella, il bambino cambia ogni giorno. E quindi il primo consiglio, volete fare un lavoro che vi porti alla pensione nei prossimi 50 anni, 60 anni, scegliete quei lavori complessi, non lineari, cioè dove la risposta alla domanda durante la giornata non è banale, cioè è un salto creativo, pindarico, che una macchina non saprebbe fare. È lì che si annida il pericolo, no? Cioè, un mio amico Luca Foresti, che sta rimettendo in piedi un po' il sistema sanitario italiano dal punto di vista privatistico, dice: tutti quei lavori che potrete scrivere su un foglio di carta come un algoritmo, io al mattino faccio questo, verranno spazzati via. Ascoltami, lo speaker radiofonico come sta, come sta in questa classifica? Non me la cavate bene, prima di svegliarmi. Pensa che io mi sentivo già come il tassista, un lavoro lineare, la mattina ti svegli con la voce automatica che dice questa è, si può fare. Il cronista se la passa male. Giusto. Quello che riporta le notizie dal mondo. Ah sì? Mi fa i salti. Sì. Ma perché qualcuno dice che le macchine riusciranno anche a scrivere i romanzi? Gli articoli di giornali già lo fanno. Già i comunque film, Massimo come... Temporelli, a me è piaciuta quando tu hai detto che bisogna cambiare il cassetto, la scrivania, tutto, perché è chiaro che se ci domandiamo oggi c'è lavoro per 7 miliardi di lavori creativi, si rischia di rimanere sconcertati. Invece tu ci inviti a cambiare paradigma, ci dai qualche altro assaggio di questo nuovo paradigma, cioè cosa dobbiamo pensare, dove dobbiamo girare la testa per capire che tutto sta cambiando e quindi ci sono prospettive rosee per tutti? No, se no sarai il presidente degli Stati Uniti o del mondo. Noi ti vogliamo candidare. Il presidente degli Stati Uniti non è più un ruolo. Vabbè, non importa, vai avanti, infatti. Scusami. Non è libero. No, al momento. Appunto, io torno sulla complessità. Noi abbiamo un cervello che ragiona, che intimamente produce diversità e poi dopo fa delle scelte in funzione dell'ambiente in cui si trova. Io proporrei nelle scuole, ma anche come nostro esercizio personale giornaliero, di giocare su questa nostra caratteristica, cioè il design thinking, così chiamato, il problem solving, la visione laterale. Mi sembrano cazzate da coach che deve formare i grandi manager, ma poi alla fine è quello che ci permetterà di trovare posto nelle fabbriche del futuro, negli uffici del futuro. Quindi incentivarlo con esercizi stupidi, cambiare strada mentre andate al lavoro per ritrovare la strada giusta risolvendo un problema. Non so, cambiare la situazione e provare a risolvere il problema che quella situazione cambiata ci pone davanti. Coach Temporelli, ottimo. Coach Temporelli d'ora in poi. E va bene. Grazie Massimo Temporelli, grazie per essere stato con noi. Abbiamo cercato di riflettere su questa notizia, su questo elemento di discussione. Si può fare tassare i robot per incentivare il lavoro umano? La risposta di Temporelli è stata no. Si possono fare altre cose. Ma invece vedi, però, insomma, sono... Interessante. Sì, sì, è interessante la risposta, perché invece pensavo che anche da parte degli innovatori fosse una proposta accettabile, nel senso che pensavo che facesse parte del processo di innovazione. Invece giustamente Temporelli sottolinea che potrebbe interromperlo. Io sto ancora cercando di capire tutto quello che ha detto e non sono sicuro di aver capito tutto, anzi poco. 800 24 00 24, ascoltatori, voi che cosa ne pensate? Intanto con Vittoria che ci chiama da Milano. Buongiorno Vittoria. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, secondo me è il governatore della Puglia. Ah, partita secca così, col personaggio. Stiamo parlando del personaggio, Sì, immagino. Sì, è il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Sì. Per quale delle 85 notizie della settimana? Sento male, scusi, può ripetere? Per quale notizia ha pensato che sia Emiliano il nostro personaggio? Perché si sta proponendo come segretario del Partito Democratico, assolutamente. Esatto, quindi è stato coraggioso e assolutamente ha fatto discutere, coraggioso perché candidato a segretario del PD è come andare in guerra in Vietnam. Ha fatto discutere perché aveva detto che andava via e poi invece all'improvviso ha detto che rimaneva, ma non è lui. Bravissima, brava Vittoria, però non è lui. In effetti era molto allineata con i nostri indizi, che erano un po' dei trappoloni che cercavano di andare anche un po' in quella direzione. Carmine da Roma, buongiorno. Buongiorno, anche io chiamo per il personaggio. Vai. Prego. Papa Francesco. Papa Francesco, per quale notizia? per il fatto che abbia aperto all'unione di fatto, sono stati i parroci ad accettare anche le unioni di fatto, al di là del matrimonio, anche se non sono sposate, per quelli che convivono in effetti. Sì, quindi vabbè, Papa Francesco coraggioso sicuramente. Non è la notizia, però. Facciamola, tagliamo la corda. Esatto, non è il personaggio che avevamo pensato, ma grazie di aver chiamato. Bruno da Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno, sì, sono io, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, vai, su cosa volevi intervenire, Bruno? Ma io sul personaggio della settimana, per la verità. Prego, yes. Chi sarebbe? Ma secondo me, io la butto giù, ma. È Donald Trump. Donald Trump, per quale anche lui delle tante notizie che lo riguardano sarebbe il personaggio di questa settimana? Ma perché una persona più coraggiosa di lui su tutto quello che va dicendo è super contestato, contestatissimo, nonostante abbia vinto le elezioni in America, non ha confronti. Beh, giusto, è vero, sicuramente va un po' coraggio, sì, coraggio. Beh, insomma, è più coraggioso di solito dire un certo tipo di cose quando non sei il presidente degli Stati Uniti, dal ruolo del presidente degli Stati Uniti. Però, insomma, ci sta. Ma non era il personaggio che avevamo pensato. Non era lui. È un altro personaggio che è coraggioso e che ha fatto discutere. 800240024. Direi che siamo anche abbastanza lontani per ora, molto lontani. Sì, tra direi poco, di sì. Se serve altro indizio, vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Presidente, no, c'è un'emergenza anche qua. C'è un'emergenza anche qua. Ci sono 3600 disabili che non hanno assistenza. È un loro diritto. Se lei non è capace a dare i soldi, perché lei ci deve dire solo quando, si dimetta, perché è il suo lavoro dare un'assistenza a questi disabili, non me ne frega niente come. Lei doveva venire subito! Questo è un momento della settimana, un momento che forse molti hanno visto sul web o anche in TV. PIF, che partecipa alla manifestazione dei disabili, che giustamente, sostenendo la loro protesta, e come sempre accade quando c'è un personaggio della televisione, poi si accendono i riflettori, e Crocetta è stato costretto a fare dietrofront, ad ammettere l'errore. Vale un po' quello che dicevamo prima per la questione, no, Carlo, in Lombardia dello smog. Cioè, uno si immagina che il primo pensiero del governatore della Sicilia la mattina dovrebbe essere già questo, esatto, senza bisogno di qualcuno che glielo urli in faccia, che gli fa una causa legale. Siamo purtroppo a questo, ma speriamo che naturalmente l'intervento di PIF serva. E tra l'altro PIF, che è già stato chiamato in causa come personaggio della settimana dai nostri ascoltatori, e quindi ci sembrava anche giusto, coraggioso. Sapevamo che ne avremmo parlato poi dopo. Esatto, ma non era lui il personaggio coraggioso e che ha fatto discutere che andiamo cercando. 800 24 00 24. Adesso parliamo del sud, del sud. Tra nord e sud. Allora, rapporto col cibo. Per noi meridionali il cibo è legato alla sfera emotiva. Cioè, voi qua a Milano, al nord, per dimostrare l'affetto regalate mazzi di fiori, noi casse di pesce, fette di carne, vassoi di dolci. Voi ci avete il weekend, no? Noi no, perché noi ci abbiamo il pranzo della domenica coi parenti, che dura comunque 2 giorni. Uno per mangiare, l'altro per digerire. È tipo brunch, solo che noi al posto di eggs and bacon, orange juice e cheesecake ci abbiamo pasta con le sarde, melincione e muttonate e cazzilli fritti. Allora, buona domenica, Giuseppe Provenzano, vice direttore di Svimez, che è l'associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica. Buongiorno. Allora, la notizia è questa. Secondo me è abbastanza incredibile questa settimana. Come sempre le notizie incredibili poi sono delle brevi a metà giornale e nessuno se le fila. Allora, l'agricoltura che nonostante tutto quello che sappiamo fatica no, e prezzi bassi ci regala sempre soddisfazioni. Noi qua si può fare, siamo grandi tifosi dell'agricoltura. È un settore che ha resistito molto bene alla crisi. Ora però scoprire che grazie allo sviluppo dell'agricoltura addirittura il prodotto interno lordo, il PIL del Mezzogiorno d'Italia nel 2015 è stato superiore a quello del centro-nord, ci ha lasciato a me personalmente di stucco. E soprattutto ci chiediamo perché non se ne parla. Perché, ma vi siete sbagliati con questo rapporto Svimez o cosa? No, non ci siamo sbagliati. Ogni tanto qualche buona notizia vogliamo darla anche noi. Giusto. E il 2015 in effetti è stato veramente un anno di svolta, perché come dicevate voi, l'agricoltura nella crisi aveva tenuto di più, è un settore non ciclico per definizione, ma nel 2015 il boom dell'agricoltura nel Mezzogiorno, un vero e proprio boom, più 7% nel valore aggiunto, ha tirato su il PIL dell'intera area, facendo crescere il Mezzogiorno più del centro-nord e tenendo alta anche la performance complessiva del paese, che in quell'anno vedeva un rallentamento per le crisi bancarie nel nord-est, eccetera. Quindi ma vogliamo dare sì, approfondire, certo, diciamo, pensavo, vogliamo dare un nome, un volto, un titolo a questo settore, a questi settori di agricoltura, di cosa stiamo parlando, produzioni di che tipo di imprenditori, che tipo di agricoltori, agricoltori tradizionali, giovani imprenditori, di cosa stiamo parlando esattamente? Stiamo parlando di produzioni vegetali, stiamo parlando di olio, stiamo parlando di vino, soprattutto nel Mezzogiorno, stiamo parlando degli agrumi ovviamente, che sono le produzioni nell'area diciamo le più significative. Parliamo anche di una fetta di nicchie di produzioni agroalimentari molto, molto importanti, che tuttavia diciamo sono ancora poco sviluppate, ma quelle che ci sono e quelle che sono rimaste soprattutto dopo la crisi si fanno notare per performance molto importanti sui mercati internazionali, eccetera. Aziende ancora troppo piccole, sono aziende che ancora non hanno completato diciamo quell'ammodernamento, il ricambio generazionale nell'impresa, che è fondamentale per questo tipo di performance, ma che tuttavia mostrano un primo trend che noi abbiamo voluto analizzare, approfondire. E sono tantissimi i trend. Noi settimana scorsa, giusto per dirne uno o due settimane fa, non ricordo, abbiamo parlato di quel giovane di 27 anni in Calabria che ristruttura mulini e sta proponendo tutta una filiera corta di farina e addirittura di panifici, pizzerie, tutto a chilometro zero, ristrutturando antichi mulini della Calabria. Questa è solo una delle tantissime storie. Senta, però, perché Provenzano invece poi nell'immaginario nostro di tutti, quando si parla di economia, si pensa all'agricoltura e al sud sempre come settori residuali. Adesso scopriamo addirittura che trainano il PIL italiano, che noi invece pensiamo sempre concentrato al nord, le industrie, le esportazioni, eccetera, eccetera, il Jobs Act, tutta questa roba qua. No, ma in effetti è così. Cioè così, sono settori diciamo che sono fortemente deboli, noi dobbiamo cercare di trovare il modo di renderli più forti. Cioè la nostra idea è nata un po' da un paradosso che abbiamo visto in questi anni, cioè il settore agricolo nel Mezzogiorno, il settore dell'agroalimentare nel Mezzogiorno, che nell'area sono diventati sempre più forti perché c'è stato anche un arretramento delle produzioni industriali, eccetera, e anche sono legate a una cultura. Voi avete fatto sentire prima quello sketch bellissimo, no, su quanto di Teresa Mannino, certo. Sì, quanto il Mezzogiorno è legato alla cultura anche del cibo, della terra, dell'agroalimentare, e tuttavia questo settore così forte anche nell'immaginario meridionale e che ha un peso rilevantissimo nell'economia del sud è sempre più debole rispetto al centro-nord e alle potenzialità stesse che ha nel Mezzogiorno il settore. Quindi noi volevamo capire, di provare a capire come si risolve in senso positivo questo paradosso. E cosa proponete? Qual è la vostra l'indicazione? Guardate, che quello, l'esempio che faceva lei prima è un esempio fondamentale, perché quando si parla di agricoltura non si deve solo immaginare il ritorno alla terra, che pure è una cosa che esiste tra i giovani. Per esempio, il dato più importante secondo me che noi facciamo vedere in questo rapporto, poi non l'abbiamo tanto raccontato forse, ma è l'aumento delle immatricolazioni alle facoltà di agraria dei giovani. Quello è fondamentale per fare quello che noi immaginiamo. Quello è il futuro. Cioè l'idea che l'agricoltura non sia più il settore di primo assorbimento di manodopera quando ci sono le crisi, oppure di assorbimento di immigrati spesso sfruttati, e per fortuna adesso abbiamo una legge sul caporalato che speriamo metta fine, diciamo, ai fenomeni più degradanti e disumani che nelle campagne ancora ci sono. Ma non possiamo immaginare solo la terra. L'agricoltura oggi è un settore, questo stiamo cercando di far vedere noi con questo rapporto, attraverso la multifunzionalità, che può attivare altre produzioni, può attivare produzioni industriali, può attivare il settore delle costruzioni. Immaginiamo cosa è avvenuto con gli agriturismi, ma può attivare anche diciamo beni pubblici, il controllo del territorio, certo, la difesa del suolo. Cioè per esempio immaginiamo quanto è importante questo settore per le aree interne del Mezzogiorno. Assolutamente, la difesa del suolo, quello che lei è musica per le nostre orecchie, perché ma, questo no, sarebbe veramente appunto, piano di sviluppo per l'Italia per i prossimi 20 anni. Ma infatti lei stava dicendo, stava dicendo si stanno spopolando. Abbiamo appena sentito Massimo Temporelli sulla questione dei robot, di tassare i robot, e lui ci consigliava, diceva la maggior parte dei lavori meccanici, dei lavori ripetitivi verranno sostituiti dai robot. Sceglietevi un lavoro tipo fare la maestra d'asilo o il programmatore, perché quelli sono lavori più sicuri. Ecco, anche il settore contadino. Dell'agricoltura in realtà è un settore tra virgolette sicuro, oppure fra 10 anni in realtà in tutta l'agricoltura lavoreranno soprattutto i robot, e quindi questo discorso che giustamente lei sta facendo si modifica? Ma guardi, il settore dell'agricoltura è il primo settore che ha conosciuto storicamente, diciamo, vuol dire in termini di perdita dell'occupazione, l'innovazione tecnologica. Già il mulino è un... E così probabilmente avverrà ancora. Questo non significa necessariamente un male, se solo questi processi sono governati. E appunto, diciamo, l'idea di qualificare sempre più le nostre produzioni. Noi passiamo nel rapporto, diciamo, da una produzione, da una modernizzazione produttivistica, che pure, di cui pure c'è bisogno nel Mezzogiorno, quindi aumento delle dimensioni medie aziendali, un'organizzazione dei produttori che faccia arrivare poi i prodotti nei grandi mercati. Noi dobbiamo oggi rivolgere l'attenzione, perché il mondo chiede all'Italia questo, sulla modernizzazione qualitativa, cioè puntare sulla qualità delle produzioni, ma intesa in senso più ampio, cioè guardare anche alla loro salubrità, al rispetto dell'ambiente, a tutte quelle cose che i consumatori chiedono. E queste sono cose che non è che fanno i robot. Cioè ci vuole l'intelligenza, ci vuole la cultura, ci vuole l'uomo, ci vuole la sapienza per fare queste cose. Quindi Chiedere sì. Un'ultima cosa che riguarda i prezzi di molti prodotti dell'agricoltura, dalle arance al grano, per passare anche al latte, che sappiamo ci sono proteste quasi settimanali ormai di agricoltori in tutta Italia, perché questi prezzi, si dice, non sono più remunerativi, cioè si lavora è in rimessa quasi. Com'è possibile che invece ci siano dei settori che trovano la loro strada, trovano la strada di stare sul mercato, perché questi dati statistici lo dimostrano? Però c'è un problema di remunerazione del lavoro in agricoltura, di prezzi, di tariffe. Senz'altro, ma le due cose non sono in contrapposizione. Quello è un problema enorme, uno dei principali problemi per cui l'agricoltura da sola non basta, perché sposta questa variabilità dei prezzi, che pure deve trovare forme di controllo e di regolazione in Europa, che oggi non ci sono, per giocare su uno scacchiere più grande. Cioè anche qui l'idea che l'agricoltura significa un ripiegamento tutto interno, tutto nazionale, tutto sulle nostre produzioni, è un'idea un po' illusoria. Ci sono delle dimensioni che vanno considerate, ma proprio per questo, in parte per emanciparsi, diciamo, da questo tipo di variabilità, quello che noi proponiamo, quello che l'Italia deve saper fare, il Mezzogiorno con la sua straordinaria cultura enogastronomica e anche cultura della terra, sapienza contadina, è proprio quello di spostarsi verso quel tipo di produzioni che sono meno vulnerabili a questa estrema variabilità, quindi produzioni di qualità, multifunzionalità, dunque non solo l'agricoltura in sé, e una trasformazione dei prodotti, che è il vero elemento di debolezza del Mezzogiorno, storicamente un elemento di debolezza, ma che ancora oggi è la sfida principale. Noi dobbiamo trasformare meglio quello che la terra del sud produce per portarlo sui grandi mercati dove c'è una grande richiesta. Bene, noi intanto insomma vogliamo ancora una volta sottolineare, la ringraziamo, Giuseppe Provenzano, vice direttore di Svimez, grazie per essere stato con noi. La notizia insomma che secondo questi dati il PIL italiano è stato in qualche modo trainato dalla ripresa dell'agricoltura del mezzogiorno, un dato molto poco intuitivo che ci ha sorpreso, ma forse anche in qualche modo ce l'aspettavamo. Cari ascoltatori, vi ha convinto questa storia, il si può fare dell'agricoltura di Svimez? 800 24 00 24, perché poi sappiamo, si sente dire, ma non può essere questo il futuro, perché il futuro, abbiamo appena parlato dell'economia digitale, la rivoluzione digitale, i robot eccetera. Però giustamente Provenzano diceva le due cose possono andare insieme, assolutamente, bisognerà continuare anche a produrre arance e olio d'oliva. E sono i numeri a dircelo. Traffico, torniamo tra poco, cerchiamo anche un personaggio della settimana che è stato coraggioso e fa discutere. 800 24 00 24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'inquinamento è uno dei fattori che più limitano la crescita delle popolazioni, per cui sono in calo. A centinaia, migliaia possiamo dire, muoiono sulle strade ogni stagione riproduttiva e non riescono a riprodursi. I guidatori spesso non si fermano, alle volte pensano che siano foglie, altre sembra che lo facciano per puro divertimento. Purtroppo li uccidono, li spiaccicano. Questo significa che i rospi delle popolazioni locali calano e tutto l'ecosistema viene danneggiato. E questa era la voce candida, tra l'altro, di una giovane volontaria dell'SOS Anfibi. Ve lo volevamo dire, sono persone straordinarie che dedicano parte del loro tempo anche a questo, cioè ad aiutare i rospi ad attraversare la strada. E sembra una battuta. No, ma invece è così. I rospi maschi, mi sembra, per farli arrivare dalle femmine che sono dall'altra parte della strada. Non scherziamo, perché qua si rischia di bloccare tutto l'ecosistema. Ve lo volevo dire, è iniziata la migrazione dei rospi e quindi bisogna stare attenti in macchina la sera soprattutto di non metterli sotto, quindi no, bisogna fermarsi e baciarli, periodo, così diventano dei principi in questo periodo soprattutto. Guido da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, no, da Parma. Buongiorno, da Parma, anche da Parma. Allora, no, buongiorno a tutti, vai, da Parma, Guido, vai. Telefonavo per il personaggio, sì, lo sciatore venezuelano che è andato ai mondiali di sci senza saper minimamente sciare. E come puoi sentire dall'applauso, è lui, Adrian Solano, 22 anni, è una storia bellissima, anzi ce la racconti tu se la conosci, che è più bello. Ma da quello che so era partito da Venezuela per andare a sciare e lo hanno fermato e l'hanno rispedito indietro. Già, esatto, questa era una notizia, partito dal Venezuela per andare a fare sci di fondo. L'hanno preso per un emigrante. Un clandestino. Esatto, e l'hanno mandato indietro. E a causa di questo ritardo non ha potuto fare nessuna prova. Lui non aveva mai sciato, credo di aver letto da qualche parte. Quindi la sua prima volta è stata in gara. Esatto. E si è visto, poverino. Però si è fatto un mazzo così. Adesso, dopo che è stata raccontata la storia, è stato giustificato. Non è che lui fosse uno scemo che voleva andare lì senza aver mai provato la neve. Doveva andarci un mese prima. Lui si era allenato su Prato e a quel punto aveva un mese di allenamenti. È stato bloccato. Invece, grazie a una colletta di una TV finlandese che ha racimolato i soldi, sono riusciti a portarlo e che l'hanno portato lì praticamente il giorno prima della gara. E lui è stato comunque incredibile. Alla fine della gara fa un sorriso che secondo me è straordinario. Dovete proprio vederlo quel video, perché dei 10 chilometri riesce a farne solo 6, ma secondo me è il vincitore morale di quella gara ed è stato molto bello vederlo e assistere alla sua storia. Aveva proprio l'aria soddisfatta di chi si rendeva conto di aver compiuto un'impresa straordinaria. Guido, grazie, complimenti, ti porti a casa il premio di questa settimana, un libro, sarai contattato dal nostro dal centralino, dal marketing, la nostra bibliotecaria, pensavo dicessi i dettagli, certo. Sleep on a senior time. sempre bello poter ascoltare le note della musica dei Pink Floyd, questa Ship. Sei, oggi è tutto il giorno che sottolinei il fatto che non hai più 18 anni, direi. Come no, anche il nostro Andrea Piana, autore di queste prodezze musicali. Ritrovate tutte le nostre scelte musicali sulla pagina Si può fare sul sito di Radio 24, perché la storia che vi andiamo a raccontare ha per protagonista la capra Caterina, ma anche il sindaco di Aliminusa, alle porte di Palermo, Filippo Dolce, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. Buona domenica, perché lei è l'autore di questa iniziativa che vede la capra Caterina protagonista di che cosa sul territorio del comune di Aliminusa? Ce lo dica lei. Glielo dico subito, guardi. La capra Caterina, chiamata anche giardiniera, che è, diciamo, una, è stato coniato dai giornalisti che hanno fatto per caso, oltretutto, questo reportage, questo video, di fatto non è altro che la coda di un progetto molto più ampio. Chi mi ha preceduto, secondo me, che era il vicepresidente del rapporto Svimez, noi siamo in piena coerenza con quello che è, diciamo, il rapporto Svimez. Guarda, vero, vero. Dire, lei si è agganciato da solo, adesso pilota automatico, vada, faccia lei. Glielo dico subito, sì. Glielo dico subito, perché il mio paese ha portato avanti un progetto, ha dato i Natale a un grande poeta, Giuseppe Giovanni Battaglia, morto ai noi nel 1995, che è stato allievo di Sciascia. Sì. E Sciascia, Leonardo Sciascia, lo definì il poeta della terra, il poeta contadino. Meraviglioso. Ora, io però glielo dico, abbiamo tre minuti, glielo dico perché lei è partito da... La sta prendendo molto alla larga, però è bellissimo. Finisco subito e dico, ho voluto creare un percorso sensoriale sulla cultura contadina. Il percorso sensoriale significa che chi viene ad Aliminusa, di un progetto, l'Università di Palermo ci ha definito come comune imprenditivo, e ho creato questo percorso sensoriale che porta al percorso delle poesie e allo zoo contadino, che è un neologismo. Tutto si può consultare sul sito www.parcobattaglia.it. Lo zoo contadino è molto bello, cos'è? Che cosa consiste? Lo zoo contadino significa che è una fattoria didattica che ha, quindi, che lancia dei messaggi culturali, di cui il comune è detentore, di asini, e pecore, galline e anche di questa ormai famosa capretta. Che avete impiegato? Oltre ad avere una funzione culturale e didattica, la capretta con gli animali vengono utilizzati per pulire le aree periferiche del comune. Ecco, ci siamo arrivati, nel senso che lei l'ha detto con delle bellissime parole poetiche, ed è anche molto bello che vengano dette da parte di un politico. La questione è di usare una capra al posto di un giardiniere e risparmiare, far risparmiare al comune 5.000 euro, questo, giusto? Allora ti dico subito io cosa è. Questa non è la capretta che toglie lavoro. No, no, lo sappiamo. È l'incontrario, perché il progetto, il turista, perché è un progetto di tipo turistico culturale, che viene a visitare il progetto, paga 3 euro, una tariffa di 3 euro, che vengono incamerate nel bilancio comunale, che utilizzo proprio per risolvere il problema dei precari anche negli enti locali, tenuto conto che la regione siciliana ancora ci deve trasferire, a proposito di buone prassi, quelli che sono gli stipendi dei precari di più di un anno ci deve trasferire. Quindi capite che invece se funziona il progetto, la capra o il progetto alle muse spesa della cultura contadina, ci va a risolvere il problema del depauperamento. Sindaco, bravo, io quasi non ho fatto domande al sindaco di Aliminusa, perché, come avete sentito, ha messo il pilota automatico, è andato avanti e ha spiegato magnifico. Tutto da solo. Complimenti, grazie. C'è da chiedersi se la capra verrà tassata o se la capra al TFR, visto che bisogna darlo anche ai robot. Stare dentro un film di Montalbano. Grazie ad Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone, Peter Bescapè, oggi in regia. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini.